Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrer. Traduzione di Francesco Bergamasco. Anna Maisievna Rubinstein, la capocommessa del 41. È una donna imponente, con i capelli già grigi, un bel volto tragico e un culo enorme. Quando era più giovane somigliava a Elizabeth Taylor. Ha 28 anni e già una matrona a cui i ragazzi cedono il posto sul tram. Vittima di disturbi maniaco-depressivi, per i quali riscuote un assegno di invalidità, si definisce con orgoglio una schizzoide e considera pazze tutte le persone che stima. Queste prendono la cosa per un complimento. Nel mondo dei decadenti di Kharkov, infatti, il genio ha il dovere di essere non soltanto misconosciuto, ma anche avvinazzato, eccentrico, disadattato. E poiché l'ospedale psichiatrico è uno strumento di repressione politica, un soggiorno fra le sue mura rilascia una patente di dissidenza, parola che muove i suoi primi passi nell'epoca di cui sto parlando. Edouard non la conosceva ancora quando è stato rinchiuso con i pazzi furiosi, ma ha il dono di sapersi mettere rapidamente al passo e ormai non perde occasione per raccontare della sua camicia di forza e del compagno di letto che sbavava e si faceva seghe tutto il giorno. Nello scrivere queste righe mi è venuto in mente che io stesso ho ceduto fino a un'età relativamente matura al culto romantico della follia. Grazie a Dio mi è passata. L'esperienza mi ha insegnato che questa forma di romanticismo è un'idiozia, che al mondo non c'è nulla di più triste e lugubre della follia. Penso che istintivamente Edouard lo abbia sempre saputo, che si sia sempre rallegrato di essere tutto ciò che si vuole, duro, egocentrico, spietato, ma pazzo no, proprio no. Il contrario, piuttosto, ammesso che esista qualcosa come il contrario della pazzia. Anna, invece, pazza lo è davvero. La sua follia prenderà una china tragica, ma per il momento può ancora passare per una forma di stravaganza, di esuberante originalità, come la sua ben nota voracità sessuale. Al 41 si racconta che si sia passata tutta la bohème di Kharkov e soprattutto una specialista nello svergilamento di giovani autori. Dato che abita proprio lì accanto, le serate in libreria finiscono spesso a casa sua. Edouard all'inizio non viene apertamente invitato e si immagina che vi si svolgano autentiche orge. In realtà, come scopre quando si fa coraggio e si accoda ai presenti, gli after di Anna consistono, come libreria, in accese conversazioni su arte e letteratura, declamazioni poetiche sempre più stentate, pettegolezzi e private jokes incomprensibili per lui, che, seduto su un angolo del divano peloso, ride quando ridono gli altri e si ubriaca per vincere la timidezza. Eccetto la padrona di casa e la madre di lei, che ogni tanto bussa alla porta per chiedere di fare meno rumore, a quelle serate ci sono soltanto uomini che abbracciano Anna con familiarità e la baciano sulla bocca. Edouard ha la sgradevole impressione di essere l'unico del gruppo a non essersela sbattuta. Ha davvero voglia di sbattersela o non piuttosto di far parte di quel gruppo che considera con lucidità la sua unica speranza di uscire da Saltov? Anna ha un bel seno, è vero, ma a lui non piacciono le grasse. Quando si masturba pensando a lei, Edouard manca di convinzione e teme, se finiscono a letto, di non riuscire a farselo venire duro o di eiaculare troppo in fretta. E poi, una notte, tardissimo, gli invitati se ne vanno l'uno dopo l'altro e lui rimane. Come Julien si era ripromesso di prendere la mano di Madame de Renel, Edouard si è ripromesso di rimanere, costi quel che costi, anche solo per dimostrare a se stesso di non essere un fifone. Gli ultimi ad andarsene gli strizzano l'occhio mentre si infilano il cappotto. Edouard recita al suo meglio la parte del tipo vissuto, calmo, che sa come comportarsi. Quando restano soli, Anna non si fa pregare. Come previsto, la prima volta Edouard viene in fretta, ma ricomincia subito. È il privilegio della gioventù. Quanto ad Anna sembra contenta. È questo l'essenziale. Perché il piano del nostro Edouard, questo Barry Lyndon sovietico, non prevedeva soltanto di andare a letto con Anna, ma anche di sistemarsi armi e bagagli a casa sua, nel Sancta Sanctorum della Bohème, e passare così dal ruolo di piccolo proletario appiccicoso a quello di amante in carica e padrone di famiglia. Siccome l'appartamento è costituito, gran lusso, da due stanze, e Anna vi abita con la madre, Celia Jakovlevna, questa all'inizio finge di non accorgersi che Edouard resta a dormire, ma ben presto comincia a trattarlo come uno di famiglia, sia perché Edouard ci sa fare con le signore in età, sia perché la donna gli è riconoscente per aver messo fine alla sfilata di amanti che faceva spettegolare il palazzo. Pensare a quella sfilata farebbe precipitare un altro uomo nei tormenti della gelosia retrospettiva. Per lui è uno stimolante. Va detto che Anna non lo eccita granché, e per poter muovere l'assalto di quel corpo enorme, pieno di pieghe, Edouard deve ubriacarsi. In compenso, immaginare tutti gli uomini che lo hanno preceduto lo eccita. Molti appartengono alla loro cerchia, lo invidiano o si fanno beffe di lui. Ciò che Edouard rispettivamente desidera e teme più di tutto al mondo, probabilmente un po' entrambe le cose. Certo è che l'Edouard di soli pochi mesi prima, fonditore alla falce e martello, avrebbe invidiato dal profondo del cuore questo Edouard che non abita più a Saltov, ma in quel centro un tempo inaccessibile, che ha per amici non più operai e teppisti di periferia, ma poeti e artisti, ai quali apre la porta con la noncurante sicurezza dell'uomo che ha casa propria, ama le improvvisate e avere ospiti a tavola. Non è più costretto ad alzare la voce nel chiasso delle discussioni. Quando parla, gli altri lo ascoltano, perché lui è il Hasjain, termine che indica il padrone di casa, ma con una sfumatura di autorità feudale. Si può essere il Hasjain di un'intera città, Stalin lo era dell'Unione Sovietica. Naturalmente sarebbe meglio se Anna fosse più bella e se lui la desiderasse di più. Ma ciascuno dei due trae il proprio vantaggio da questa specie di partenariato, al contempo burrascoso e affettuoso, che si forma tra loro e che durerà 7 anni. Lui le dà stabilità, lei lo dirozza. Edouard legge le proprie poesie ad Anna, che le trova buone e le passa a Motrich, e anche lui le trova buone, anzi ottime. Forte di questi incoraggiamenti, Edouard le legge in libreria e mette insieme una raccolta di cui copia personalmente a mano una decina di esemplari. Non è ancora arrivato allo stadio in cui sono gli altri ad eseguire le copie. Questo è il secondo gradino sulla scala della gloria dissidente. Il terzo è quello che si chiama non più Samizdat, ma Tamizdat, pubblicato laggiù, in Occidente, come il dottor Zhivago. La sua piccola raccolta circola soltanto negli immediati paraggi del 41, ma è sufficiente per farlo considerare un poeta a pieno titolo. È un titolo invidiabile perché, anche se si conduce una vita di miseria, protegge dalla degradazione insita in una vita di miseria, e molti che l'hanno tenuto ne usufruiscono senza più scrivere niente fino alla fine dei loro giorni. Non Edouard, che non è pigro, e non si accontenta facilmente. Ha scoperto che basta lavorare un poco ogni giorno, ma tutti i giorni, per essere certi di progredire, e a questa disciplina resterà fedele tutta la vita. Ha anche scoperto che in una poesia non è il caso di parlare di cielo blu, perché tutti sanno che il cielo è blu, e che le trovate del tipo blu come un'arancia, che ormai si leggono ovunque, sono quasi peggio. Edouard vuole stupire, e punta per questo sulla prosaicità, anziché sui preziosismi. Nessuna parola rara, niente metafore, chiamare gatto il gatto e se si parla di persone conosciute fornire nomi e indirizzi. Così si fabbrica uno stile che lo rende, a suo giudizio, non un grande poeta, ma almeno un poeta riconoscibile. Per essere completamente poeta gli manca soltanto il nome, qualcosa che suoni meglio del suo infelice cognome da bifolco ucraino. Una sera il gruppetto riunito da Anna si mette a inventare nomi per gioco. Leonia Ivanov diventa Areyalov, Sasha Mielenkov diventa Bukhankin e Eduard Savienka diventa Ed Limonov. Tributo al suo spirito acido e bellicoso, perché in russo limon significa limone e limonka granata, nel senso di bomba a mano. Gli altri lasceranno perdere i loro pseudonimi, mentre Eduard manterrà il proprio. Anche del suo nome vuole essere debitore soltanto a se stesso. È arrivato il momento di parlare dei pantaloni. Tutto ha inizio quando un ospite nota i jeans a zampa d'elefante di Edward e, dato che in commercio non se ne trovano, gli chiede chi gliel'abbia fatti. «Io», si vanta stupidamente Edward. In realtà li ha confezionati un piccolo sarto da cui si serviva a Cadicca ai tempi in cui era un dandy. «Se riesco a procurarmi la stoffa, potresti farmeli uguali?» «Certo», risponde Edward, che ha intenzione di portare la stoffa dal sarto e fare la cresta sul prezzo. Purtroppo, il giorno in cui va a cercarlo, niente più sarto, volatilizzato, sparito senza lasciare recapito. Per una volta che mente, gli va storta. Siccome di perdere la faccia non se ne parla, non gli resta che una soluzione. Chiudersi in casa, con i propri pantaloni come modello, ago, filo, forbici, e non mettere il naso fuori prima di aver prodotto qualcosa che somiglia a un paio di jeans a zampa d'elefante. Cucire un paio di pantaloni non è semplice, ma Edward ha ereditato dal padre un autentico talento per il lavoro manuale di ogni genere. Dopo 48 ore di tentativi, errori e piani non meno complessi di quelli per un ponte ferroviario, il risultato soddisfa il cliente, che dà Edward 20 rubli per il lavoro e fa girare il suo indirizzo fra i conoscenti, sicché le ordinazioni cominciano a fioccare. Così, per caso, Edward ha risolto il problema del proprio sostentamento per i 10 anni a venire. È in un modo a lui congeniale, perché gli risparmia il confronto con qualsiasi tipo di autorità: dirigenti di fabbrica, capi officina, capi reparto, padroni di qualsiasi genere. In quanto sarto, dipende soltanto da se stesso e dall'abilità delle proprie dita, e lavora quando ne ha voglia. Ma se ha delle ordinazioni, può fare 2 o anche 3 pantaloni in un giorno e poi dedicarsi alla poesia. Quando Anna torna dalla libreria, Edward sposta le stoffe e i fogli in fondo alla tavola. E allora Zelia Jakovlevna porta bei pomodori ucraini di un rosso vivace, un patè di melanzane o una carpa farcita. Una vera vita di famiglia. «Gli manca solo che sia ebreo al tuo uomo», scherza la madre. «Dovremmo farlo circoncidere». «Ha già un lavoro da ebreo», risponde Anna Maisieyevna. «Non bisogna pretendere troppo». A Edward piace anche questo, che Anna sia, come dice lei, una prodiga figlia della tribù di Israele. Una delle prime reazioni provocate dal progetto di scrivere questo libro è stata quella del mio amico Pierre Wolkenstein, che ha quasi deciso di rompere con me perché, secondo lui, l'uomo di cui volevo occuparmi, un russo leader di una formazione politica perlomeno discutibile, non poteva che essere antisemita. Ebbene, non è così. A Edward si possono imputare molte aberrazioni, ma non questa, che ha evitato non per dirittura morale o coscienza storica, se ne frega altamente della Shoah, come del resto la maggior parte dei russi, dall'alto dei loro 20 milioni di morti, e sarebbe senz'altro d'accordo con Jean-Marie Le Pen nel considerarla un dettaglio della Seconda Guerra Mondiale, ma per qualcosa che ha a che vedere con lo snobismo. Che il russo e più ancora l'ucraino della strada siano notoriamente antisemiti è per lui il miglior motivo per non esserlo. Diffidare degli ebrei è una cosa da zotici, con i paraocchi, lenti e goffi, una cosa da Savienka, e ciò che vi è di più lontano dai Savienka di ogni risma sono gli ebrei. A Edward non è certo indifferente che Anna sia ebrea, ma si tratta di un esotismo che apprezza senza riserve. E per quanto Anna sia, come dice lei stessa, una hooligan, una schizzoide, una degenerata, Edward vede in lei una principessa orientale. Una principessa grazie alla quale lui, che era programmato per una vita da mulo a Saltov, si è innalzato a un ambiente familiare variopinto, poetico e stravagante come un quadro di Chagall. Tuttavia, Edward non sarebbe Edward se restasse seduto a fare il sarto in camera sua, sfornando versi e pantaloni. Oltre ai decadenti del 41, si è fatto un nuovo amico, un playboy, la parola comincia a diffondersi in Russia, di nome Guyenka. Guyenka è figlio di un ufficiale del KGB, il quale, più sveglio del povero Beniamin, si è riciclato come direttore di un ristorante chic, frequentato dai vertici della gerarchia cechista. Un uomo molto importante in città, dunque. Con conoscenze simili, Guyenka potrebbe entrare nel partito come suo padre, diventare a 30 anni segretario del comitato distrettuale e godere per il resto dei suoi giorni di una vita beata: dacia, auto di rappresentanza, vacanze in stazioni balneari della Crimea dotate di ogni comfort. Una strada in discesa, tanto più che all'epoca tutti sanno che è finito il tempo delle epurazioni e del terrore. La rivoluzione non divora più i suoi figli. Il potere, secondo l'espressione di Anna Akhmatova, è diventato vegetariano. Con Nikita Khrushchev, il radioso avvenire ha assunto l'aspetto di un obiettivo semplice e pacifico: sicurezza, un tenore di vita più elevato, crescita serena delle felici famiglie socialiste, nelle quali i figli non vengono più esortati a denunciare i genitori. Dopo la morte di Stalin c'era stata, è vero, la delicata fase della liberazione di milioni di zec, alcuni dei quali sono stati addirittura riabilitati. Di una cosa erano certi i burocrati, i provocatori e gli spioni che li avevano spediti nei gulag, che non avrebbero mai fatto ritorno. Ora alcuni sono tornati. E per citare ancora la Akhmatova, si sono trovate faccia a faccia due Russie, quella che ha denunciato e quella che è stata denunciata. Avrebbe potuto esserci un bagno di sangue, ma così non è stato. Quando delatore e reduce si incrociavano per strada, sapevano come comportarsi l'uno nei riguardi dell'altro. Ristoglievano lo sguardo e continuavano ciascuno per la propria strada, a disagio, entrambi in preda a una confusa vergogna, come persone che in passato l'hanno fatta sporca e ora preferiscono non parlarne. Alcuni, tuttavia, ne parlavano. Nel 1956 Khrushchev aveva letto al 20° congresso del Partito Comunista un rapporto segreto che non era rimasto tale a lungo, in cui denunciava il culto della personalità ai tempi di Stalin e ammetteva implicitamente che per 20 anni il paese era stato governato da assassini. Aveva autorizzato la pubblicazione del libro di un ex zec che si chiamava Salgenitsin, una giornata di Ivan Denisovich. Era stato un elettroshock. Il numero 11 della rivista Novi Mir, dove era uscito quel racconto sobrio e dettagliato di una normale giornata di un normale detenuto in un campo neanche troppo duro, era andato a ruba in tutta la Russia. La gente era rimasta sbalordita, non osava crederci e aveva cominciato a dire cose come «è il disgelo, ritorna alla vita, Lazzaro risuscita». Basta che un uomo abbia il coraggio di dire la verità perché nessuno possa più nasconderla. Pochi libri hanno suscitato un tale scalpore nel proprio paese e nel mondo intero. Nessuno, tranne 10 anni dopo Arcipelago Gulag, ha cambiato tanto a fondo e realmente il corso della storia. Il potere capisce che se si continua a dire la verità sui campi e sul passato si rischia di spazzare via tutto. Non soltanto Stalin, ma anche Lenin e lo stesso sistema e le menzogne su cui esso è stato costruito. Per questo una giornata di Ivan Denisovich segna l'apice, ma anche la fine della destalinizzazione. Dopo la rimozione di Khrushchev, la generazione di apparatchik uscita dalle purazioni passa, sotto l'egida dell'amabile Leonid Brezhnev, a una sorta di stalinismo morbido, basato su un partito ipertrofico, quadri stabili, raccomandazioni, cooptazioni, prebende grandi e piccole e repressione moderata. Ciò che insomma verrà definito comunismo della nomenclatura, dal nome dell'elite beneficiaria, benché questa elite risulti in fondo relativamente numerosa e piuttosto permeabile. Basta solo stare un po' al gioco. Praticamente ogni russo abbastanza vecchio per aver vissuto quegli anni stabili e plumbei, rassegnati e in un certo senso confortevoli, li ricorda con nostalgia, oggi che si trova condannato a galleggiare e spesso ad annegare nelle gelide acque del calcolo egoistico. Il grande adagio dell'epoca, equivalente al nostro lavorare di più per guadagnare di più, era «noi facciamo finta di lavorare e loro fanno finta di pagarci». Non è uno stile di vita esaltante, ma comunque funziona, si tira avanti. Non ci sono pericoli reali, a meno che uno non sia un vero piantagrane. Tutti se ne sbattono di tutto e, chiusi in cucina, rifanno dalle fondamenta un mondo che, a meno di non chiamarsi Salzenitsin, si è certi resterà immutato per secoli, perché la sua ragion d'essere è l'inerzia. In questo mondo, un segaiolo come Guienka, per tornare a lui, può permettersi di essere un segaiolo, e anche un padre cechista come il suo può permetterglielo. Naturalmente sarebbe meglio se Guienka entrasse nel partito, come sarebbe meglio se un giovane borghese nella Francia degli stessi anni, i gloriosi 30, si iscrivesse all'ENA o al Politecnico, ma anche se non lo fa non è poi tanto grave, non morirà di fame, né in un campo di lavoro. Gli si troverà una piccola sinecura nella burocrazia, onde scansare l'arresto come parassita ed elemento antisociale, e sarà a posto. Così Guyenka, sgravato di ogni preoccupazione sul suo futuro, passa le notti a bere gratis con l'amico Edouard nei locali gestiti dai colleghi del padre e le giornate, almeno quelle estive, al bar dello zoo, dove tiene tavola imbandita e fa piegare dalle risate la sua corte, scacciando i clienti con la scusa che è in corso il congresso straordinario dei domatori di tigri del Bengala, di cui lui è segretario generale. La corte di Guyenka si divide in due gruppi, SS e sionisti. Il più pittoresco fra le SS è un bravo ragazzo, la cui dote sociale è saper imitare Hitler. Non conosce granché di tedesco, ma il suo pubblico ancora meno. E basta che metta qualche rutto, strabuzzi gli occhi e gli astanti riconoscano qualche parola come Kommunisten, Kommissare, Partizanen, Juden, perché tutti si divertano un mondo, a cominciare dai sionisti. Nessuno dei sionisti è ebreo. Il loro entusiasmo per Israele è nato con la guerra dei sei giorni, ma è una posizione alquanto difficile da difendere in politica estera, perché i sionisti, per quanto mascalzoni, sono pur sempre buoni patrioti e la loro patria appoggia gli arabi e li rifornisce di armi. Ciò a cui i sionisti sono più sensibili è il valore militare. E sotto questo aspetto, tanto di cappello agli uomini di Moshe Dayan. Soldati veri, tipi tosti, come i crucchi, come i musigialli. E i russi, anche se combattono o hanno combattuto contro di loro, li rispettano, mentre non potranno mai rispettare gli americani. Quei grossi imbecilli rosei e delicati, il cui ideale di guerra consiste, come si è visto a Hiroshima, nello sganciare dall'alto bombe che disintegrano ogni cosa, senza rischiare nulla in prima persona. Oltre alla Wehrmacht e alla Zahal, Guyenka e i suoi amici, i sionisti non meno delle SS, stravedono per un film che in quegli anni a Kharkov è nelle sale quasi ininterrottamente e che hanno visto in gruppo 10-20 volte, I tre avventurieri, con Alain Delon e Lino Ventura. I film stranieri, soprattutto francesi, sono una delle novità degli anni di Khrushchev. Tutti conoscono Louis de Funès e Alain Delon. 10 anni dopo sarà il turno di Pierre Richard, persona squisita, ancora oggi considerata un dio in terra negli angoli più sperduti dell'ex Unione Sovietica, e non rifiuta mai una comparsata da guest star in una produzione georgiana o casacca. La scena iniziale dei Tre avventurieri, in cui Delon passa in aereo sotto l'Arco di Trionfo, ispirerà a Edouard e Guyenka la loro più memorabile bravata, quando, tanto per cambiare sbronzi, cercheranno di fregare un vecchio trabiccolo e farlo decollare sulla pista dell'aerodromo militare. La faccenda non avrà conseguenze. Le guardie che li arrestano la prendono sul ridere e, intenerite come lo sono stato io il giorno in cui i miei figli di 6 e 3 anni sono fuggiti di casa con un fagotto annodato attorno al manico di un ombrello, offrono loro un bicchiere per consolarli del fiasco. Così trascorrono le giornate di Edouard. Cuce, scrive, frequenta Guyenka e la sua banda, sfoggiando quei bei completi che si fa da solo. Ne ha uno color cioccolato con un filo d'oro di cui è particolarmente orgoglioso. Fa addominali e flessioni. È muscoloso, abbronzato d'inverno come d'estate, perché la tintarella si conserva a lungo sulla sua pelle bruna. Ma darebbe una fortuna per qualche centimetro in più non portare gli occhiali e non avere il naso all'insù. Insomma, per somigliare a uno come Alain Delon, che cerca di imitare quando è solo davanti allo specchio. Se viene trascurata troppo a lungo, Anna non resiste e parte alla ricerca di Edouard. Di solito finisce per trovarlo al bar dello zoo. Allora si infuria, gliene dice di tutti i colori davanti agli amici e lo insulta chiamandolo piccola canaglia. Maladoi negadiai. È appunto il titolo che Edouard darà ai propri ricordi di questo periodo. Le scenate di Anna umiliano Edouard e divertono gli amici, che scherzano sul grosso culo e i capelli grigi di quell'amante che pesa 2 volte più di lui e potrebbe essere sua madre. Per salvare la faccia, Edouard dà a intendere che la sfrutta e si fa mantenere da lei. Una volta assicura persino che Anna fa marchette per lui. È la sua filosofia. Meglio essere un ruffiano in erba che un bravo ragazzo.